con l'MBP5 e poi attento che non cambia la modulazione da questa a quella, non è che ci siano molte differenze, va molto molto bene. C'ha 5 watt, l'aiutavo con un 747 e ti dico che esce a livelli di questa che sta andando adesso. Avanti Muros. E anche quelle sono radio che non è che trovi molto facilmente, comunque. Chi cerca trova, dice quello, già va bene, io ne avevo trovato tantissime, ero pieno, ero. Infatti Giulia mi aveva fatto una seconda base proprio per mettere praticamente solo le radio vintage, capito? Poi alla fine piano piano, una parte l'ho data a te, una parte l'ho data a Roberto, qualche di un altro l'ho data a qualche di un altro e così via. E mi sono tenuto quelle poche, 4-5 che ho capito, però non le uso. Ho fatto piazza pulita qua, mi sono messo la base piccolina e c'ho 4 radio praticamente, burrette sono tutte dentro l'armadio e una gran parte sono tutte vendute. Vediamo un po' se doppio rumore prende, se ne prende il turbo. E io ho smesso di cercare. Oh via. Vabbè, dai. Sono sempre in guerra, sempre in guerra. Ehi, sempre in guerra. Non ve ne è guerra, no? Capito già, non ce n'è guerra, e va bene anche così. Ma io poco fa stavo messaggiando con Luca, adesso non so se vediamo se c'è ancora. Flipper, no, io stavo mettendo a posto, c'era un casino lì, tutto già attaccato alla radio mia. Avanti, Roma 3, e allora che si dice, cosa si dice, che si dice? Che si dice? Un socio in occhi. Un socio. Dopo le 6 girano i ciuffi di paglia come nei film western. Cosa hai detto? Ti ricordi i film western, no? Praticamente che giravano quei ciuffi di paglia che rotolavano lungo la strada. Una cosa del genere, vedi? E qua ci sono i ciuffi di paglia, tipo film western. Arriveranno anche i fiocchi di neve, non ti preoccupare. Avanti, doppio. Via, chiodo arrugginito, non c'è più. Che c'è? Vai, chiodo. Infatti. Pochi ma buoni, dice quello. Ogni tanto c'è il boom, entra un po' di gente, poi rimane in stand-by. Vabbè, qua siamo. Io, diciamo che da quando mi sono spostato sull'altra parte, perché c'avevo il televisore di spalle, adesso ce l'ho. Sono faccia al televisore, in pratica sono un po' più presente, perché entro qua, mi guardo la mia TV, e sto insomma da una parte all'altra, ma comunque, mentre prima invece toccava fare girato, va bene, stavo dicendo, Roberto è andato via, vabbè, altro clipper l'abbiamo chiamato, non riprende, se vuole riprendere qualcuno, siamo qua, se no riprendi tu Gianni doppio rumore. Finito a di giattà, bocciati e favetimi, avanti un caffè. Già me lo immagino, con una mano il mic e con l'altra il telefono spippolando, ragazzi. Scusi, la buona mano. Se non mi dai un tempo di pigliare mai. Nel culetto te la metti la mano. Cosa? Nel culetto. Invece di chattare, mettiti la mano nel culetto. Quello delle donne. Va bene, vedi che al buio sono tutti uguali, culimi. Tu mi la dichisci di rimascio, a me non mi piace di chi. Io c'ho quelli verdi, dicono in bellura. Lo caffè. Già, dovrebbe pensare che ero bugio, manco ce ne abita, no già? Come diceva quella barzelletta, organizziamo sì. Tu non hai la luce, la buoniare sempre detto, però. Gianni, molla il PTT quando finisci la frase, perché spesso e volentieri, cazzo, ti canni l'ultima parola. Come? Molla il PTT? In che senso? Sì, lo mollo, però a volte si inserisce quello fisso, capito? Secondo come lo tu, si dice che l'office rimane attaccato. Ah, ho capito, no, perché ogni tanto ti capita che l'ultima parola viene segata. Vabbè, dai, no problems, vai, avanti. Un po' di culo, hai visto, viene cegata anche, vai, chiodo. Allora sì, c'è la TV a parete da 40, ed è, in pratica ho le cuffie quelle senza fili, collegate al sistema della TV, quindi sto guardando le figure e sto ascoltando, ma sto ascoltando anche a voi, perché il volume della TV è basso, e sento a voi con la colonnina esterna della radio, capite? Abbiamocelo organizzato. Ehi, come ha detto un amico l'altro giorno, guardare la televisione col volume basso è come guardare un acquario. Dice bene, infatti. No, io ho il sistema audio con le cuffie senza fili, cioè, quindi guardo, anche ieri stavo parlando guardando la partita in Italia. E niente. Posso anche ascoltare a voi e in contemporanea, perché c'è un sistema più di audio della TV e apre quello delle stesse cuffie, capito? E apre quello della radio, del baracchino, però lascio stare così, lascio tutto. Ho preso da Rubio, da Eudorix, un affarino piccolino, dove c'è l'ingresso per le cuffie della radio, del baracchino, e poi c'è il sistema wifi della TV, capito? È un blocco piccolino, sarà piccolo, quanto un po' più grande di un telefonino, una cosa del genere assurda. Va bene. Gianni doppio rombo, 7 1/4 sono già, minchia. Sento qualcuno sotto, ma non capisco se sia splatter o che cosa sia. Qualcuno sotto sente. Mi porto appresso io, se non c'è gente nel 23, vabbè. E comunque, cosa si dice? Quest'ora è ora già quasi di portare il cane, così. Non è andato più, cioè finita la pioggia, domani c'è il sole di nuovo, poi mercoledì mi sembra sia nuovo a tempo brutto, però domani c'è una tregua, una giornata a 20 gradi, domani ci sono, infatti già tutto asciutto, io l'ho tirato anche giù la tenda per lavarlo del poggiolo, dopo la ritiro su, è già secca. Avanti, chi ha arrugginito, operatore Claudio Ramuros? Forse hai ragione tu già, c'è una modulazione sotto, ma se vediamo chi è, tanto salutiamo a Claudio. Ciao Claudio, saluta mamma, babbo e già ci sentiamo, ok? Avanti per i saluti, il buffè. Ciao Chiolo, alla prossima, grazie della chiacchierata e ci si aggiorna più presto, dai, avanti doppio. Ciao Claudio, ci sentiamo dopo, dai, se rientri, se no buona serata. Ciao Claudio. Avanti Claudio Villa. Claudio, ciao Claudio, alla scimmia. E tu presto lo stai portando per quel cane già? O sempre verso le 8? No, alle 8 l'ho fatto io. A meno che non che piova, che vedo che c'è brutto tempo, allora l'ho fatto prima e voglio c'è porticato sotto casa. Oggi la pioggia che ha fatto, a fredda niente non si poteva passare, tutta la gabbia. Io non mi sono capitato, c'è anche preoccupato, io già me l'accorgo qua. È vero, via Milano che diventa un fiume in discesa, già ho visto, è una bella passata, ma l'ha detto che pioverà forte, ma c'è domani c'è tregua, poi di nuovo un'altra passata d'acqua, vabbè, ora tempo suo, considerando il fatto che non c'è neanche tanto freddo, già va bene, l'acqua ci vuole, se no si è caduto, quindi si è chiaro di chi, vai o profetto. già ha fatto una bella passata, dai. E beh, considerando che siamo a novembre, l'anno scorso le temperature erano leggermente più basse, devo dire che a livello di temperature si sta ancora bene, dai. Scenderanno sicuramente dal prossimo mese, gennaio e febbraio, però sotto quel punto di vista non ci possiamo lamentare, dai. Tu pensa che a Pedaneda ha sollevato uno di quei tombini, non di quelli a gratte, ma di quelli pieni, di quelli grossi. E chi pensa che questi tombini, per altri anni usava il picco, cavolo, immaginati. E ha sollevato l'acqua, ha sollevato uno di qui. Cosa già? Che a Pedaneda ha sollevato uno di quei tombini, quelli ripieni, quelli che non di quelli a gratte per far passare l'acqua, di quelli che sono chiusi, non so se siamo dell'erba o cosa sia, l'ha fatto alzare, l'ha scoperchiata. Già, io ti posso dire che l'acqua, il danno che fa è una cosa da non credere. Ne ho visto di tutti i colori, lavorando nei depuratori, nei potabilizzatori, piene allucinanti, ma piene da superare i livelli anche di un metro e mezzo, quindi, capito, perciò lo so, soprattutto i tombini stradali, dove arriva molta portata, e soprattutto dove ci sono grandi impianti dove ho lavorato io, tra cima allucinante, fa un bel di danno, e lo so, però purtroppo quando piove è così. Ci sono città grandi come Milano, come tante altre città che hanno un recupero delle acque piovane allucinanti, mentre noi invece siamo una città handicappata. Che cazzo, non ho visto un operatore ecologico, un'impresa, una qualsiasi cosa d'estate pulire tutti i tombini stradali, perché quelli sono recuperi da acque piovane che poi entrano nei depuratori, capito? Perché l'ingresso è sempre al depuratore della città, quindi arriva tutta carica con l'acqua. Quindi immaginate tu la portata che c'è quando piove. Però automaticamente, siccome i tombini sono sporchi di foglie, di terra e di quant'altro, non ce la fa a ricevere, quindi fa uno, solleva, fa livello e nata il bombino. E queste cose non devono succedere, capito? I tombini vanno puliti d'estate, chiamate nelle varie regine con tutta la giunta comunale. Vai, profeta. Ehi, guarda, è già da qualche mese che qua, soprattutto vicino a casa, al viale, che gli alberi stanno facendo cadere le foglie e praticamente, adesso non so quanti accaditori ci sono, però l'80% sono tutti da padi, quindi ti puoi immaginare l'ugasino che fa Zinocchi, cioè al viale, poi qua a zona stazione, qui le grate che ci sono funzionano abbastanza bene, però lì al viale, a Corso Vico, la maggior parte delle caditoie sono tutte intasate. Tutte non ne puliscono una, tu immagini che dove lavoravo io, ma per iscritto, ogni mese pulizia e recupero di tutto il materiale delle caditoie, di tutti gli impianti, di tutti, perché un impianto senza caditoie pulite è un disastro, ti fa un danno allucinante, capite? Siccome ci sono macchinari e quindi vanno pulite, era proprio una cosa per iscritto, se lo mettevano all'ordine del giorno proprio, capito? All'ordine del servizio c'era sempre pulizia e caditoie, e lo dovevi fare perché se passavano a controllare non erano pulite, erano caditoie. Quindi io non capisco come un assessore alle manutenzioni, un funzionario del comune, un sindaco stesso e tutta la giunta, la mappa che ne rivaria, non pensano che la città, la prima cosa che deve avere pulita proprio sono i tombini stradali, così chiamate caditoie, perché altrimenti succede un casino, si allagano le strade se non c'è il flusso dell'acqua giusto che vada a correre o all'uscita del depuratore o all'ingresso del depuratore. Va pulito, invece non è mai annettato, mai doppio. E non vanno a mettere quelli che vi danno reddito di cittadinanza a fare queste cose. Cate, ce li danno i soldi, quando mai cate, non devono farli lavorare a fare queste fesserie, perché sono fesserie, però se le fai sempre, ti ordina tutto, vedrai che la roba funziona bene. Bravissimo, ma non solo quelli. C'era un periodo che il comune assumeva i socialmente utili, capito? Che poi sono risultati utili veramente, perché molti hanno preso il posto di lavoro effettivo, quindi non vedo la ragione per cui non ci debba essere un accordo sindacato, comune, eccetera, eccetera, da poter far lavorare le persone che vogliono lavorare. capito, invece di grattarci le balle a casa, e mettere a fare questa cosa, perché quando c'erano i socialmente utili, il verde urbano funzionava, i giardini erano belli puliti, i viali erano tutti puliti, gli alberi erano tutti tagliati, i marciapiedi erano tutti ben tagliati dalle siepi, tutto, ora è un casino, tutti i luoghi, perché non sta funzionando, non sta funzionando niente. Avremmo voluto, avremmo, e non bisogna la buttare, hanno voluto andare in campo e trovare il sindaco, mi scendi e fatti gioie, e boh, capito? Vai, Roberto. Ehi, raga, io vi devo lasciare, vado a prepararmi qualcosa da sgranocchiare, e niente, dai, grazie per la chiacchierata e ci aggiorniamo appena possibile, ok, quindi ritenetevi tutti salutati e soprattutto agli orecchie pelose, una buona serata a tutti e buona carica quando la fate. Ciao Gianni, ciao, ci sentiamo, buona carica anche a te e cucina roba buona. Ciao Baffè, alle prossimine, un piacere averti ascoltato. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, ciao. Avanti Claudio. E così è. Purtroppo sta andando un po' male da questa giunta. Sono molte lamentele. Noi abbiamo fatto anche una scorta alla procura, cioè, perché il tutorione, te l'ho già detto, fa schifo. Non c'è pulizia, non c'è manutenzione di niente, di nulla. Hanno asfaltato e boh. Senza rendersi conto che il quartiere fa veramente schifo, ma schifo è, non l'ho mai visto, io abito dal 1987 qua, non l'ho mai visto in queste condizioni, veramente da schifo. No, qua l'erba l'hanno tagliata già due volte, ma solo col fatto che piove ricresce, capito? Sono venuti con i trattori, con i tagliaerba, eccetera, eccetera, hanno tagliato tutto, hanno messo la segnaletica nuova, hanno fatto l'asfalto, la segnaletica, hanno fatto le piste ciclabili, insomma, l'hanno rinnovato il rione, dai. No, io non sto parlando di quello, sto parlando di pulizia a marciapiedi, l'erba non ce n'è qua, l'erba la tagliano spesso, con i trattori via Milano all'interno, le sceppi appunto tra via Milano e via La Malfa, sono tutti dalla parte di via La Malfa, la marciapiede non si può più passare, l'hanno fatto due volte e boh, i marciapiedi sono tutti sporchi, tutto pieno di foglie per terra, i cassonetti della Mondetta dove sono le posizioni dei cassonetti sono sporchi, è sporco, il quartiere è sporco, non mi interessa a me tutto il resto va benissimo, io parlo di pulizia, igiene ambientale, che è in stato di abbandono, abbiamo fatto le foto, abbiamo fatto una petizione sia al comune, al consiglio comunale, sia l'assessore all'urbanistica, all'igiene, sanità, all'altra, abbiamo fatto di tutto e non servito mai nessuno. Ma in effetti ti dico una cosa, prima vedevo nei turbini ogni tanto che spazzavano eccetera, adesso non ne ho più visto manco io qua sinceramente. Io l'ho visto l'altro giorno in via lì, via Corraluzza, mi sono fermato ed era appoggiata la moto al momento con la mascherina, dicevo la mascherina, ho detto scusi ma che posso fare una ma l'operatore ecologico di via La Malfa non c'è, sono io, sei tu, ma cioè non puoi passare a dare una spazzata, a pulire, a fare, no, io raccolgo la carta, poi il resto se ne preoccupa la spazzatrice. Però sappi una cosa, io mi chiamo Claudio Marti, abito in via La Malfa, ho detto sappi che appartengo al comitato di quartiere, abbiamo fatto le foto, abbiamo fatto di tutto e l'abbiamo mandata anche al direttore dell'autoparco, quindi ho detto se succede qualcosa sappi che sei già avvisato, ma io oggi lo fa, io ti sto avvisando, ti sto mettendo in condizione di sapere quello che noi abbiamo fatto, perché se tu sei l'operatore ecologico di questa zona non stai pulendo un cazzo, gli ho detto, proprio così, mi stavo già girando le balle, non stai pulendo un cazzo, ok? Quindi sappi che quella zona è dimenticata, non te che sei qua fermo, appoggiato la moto a pulire, devi andare di là in via La Malfa, dall'edicola sino alla punta di via Medici, è tutto sporco. Passato vicino, sta tanto per passare due. Adesso mi informo a vedere chi è questo e poi le faccio direttamente una segnalazione privata. Magari loro lo mandano e se ne fregano loro, capito? Loro lo mandano e loro non ci vanno e lui non ci va. Questo se n'ha fatto, il verde urbano non esiste più. Era pulito quando lavoravo io lì. Okay, io ho già detto una tariffa, infatti quando funziona il verde urbano, le strade, tutto era pulito, tutto, non c'era erba da nessuna parte, funzionava tutto, adesso purtroppo non c'è più, e quindi gli operatori ecologici se ne sbattono le balle. E ti dico un'altra cosa Gianni, che non ci sono manco più controllori, capito? Io non ne ho visto più manco uno, io esco presto la mattina, uscivo presto, anche adesso esco presto, non ce n'è più neanche uno. Non ce n'è più neanche uno, evidentemente o gli hanno tolto, o gli hanno dato altri incarichi, non lo so, ma non c'è passato più nessuno in via La Malfa, io sto parlando di via La Malfa, non sto parlando di altre zone, perché certo se tu vai via Barnabasso, con la scusa che abitano tutti i politici lì, no? Via Meris, tutte le villette, via cazzo, uno spettacolo, via La Malfa è abbandonato, sto parlando di pulizia, igiene ambientale, per il resto non mi interessa perché va bene, va bene. Però come igiene ambientale è una grandissima cagata. Perché le periferie diciamo che non sono cose che si vedono, che non si vedono troppo, quindi le abbandonano un po' a se stesse, capito? Le periferie fanno così. Invece le zone centrali, siccome ci passa tanta gente, cercano sempre di tenere pulita, eccetera, capito? Certo già, la periferia, mica non deve avere circoscrizione. Non è più in circoscrizione, ci sono gli uffici tecnici del comune in via La Malfa, c'è la chiesa, c'è il campo, c'è di tutto, c'è di tutto e di più, non manca niente, non ci possiamo lamentare come quartiere, anche perché è uno dei quartieri più grandi che c'è, assieme a quello della Peroce, non c'è niente qui tra di noi. Quindi cosa fanno loro? Ho visto che dalla parte giù dell'edicola e la piazzetta è tutta sempre bella pulita perché sono uffici del comune. A salire da me in su fa schifo, fa completamente schifo, capito? Quindi lì devono pulire perché se non puliscono succede un casino. Quando poi li segnalano è un casino, li richiamano in ufficio, eccetera. E dice perché non stavi pulendo? E lui dovrà dire perché. Infatti io l'ho già avvisato a questo ragazzo, se veramente lui che deve pulire via La Malfa, io devo vedere che do la netta, non ti preoccupare, perché io domani mi sono messo già d'accordo con il presidente del comitato, che siamo molto amici, abita attaccato a me nell'altra praticamente attaccato, non sono stato attaccato, proprio stamattina, siccome lui è presidente e sono segretario del comitato, domani mattina andiamo ad Antonello, ok, dall'assessore alle manutenzioni e esponiamo il problema, vediamo cosa fa. Gli dico che ho trovato l'operatore ecologico che ha appoggiato alla moto il volume della sigaretta a telefono in mano e tutta la parte che deve pulire senza pulire, tutti i santi giorni è così. E vabbè, speriamo che si svegli prima, perché se no lo puliscono e per quelle cose lì mettono multe, eccetera eccetera. Lo sto dicendo, perché già uno l'ha mandato via, perché un giorno ho trovato Mauro, che Mauro è passato col camion a agganciare i cassonetti, ho detto, ma chi è quel signore? E mi ha detto, Tizio Caio Sempronio, perfetto, me l'ho segnato un pezzo di carta, sono varato all'autoparco, sono andato là dietro all'autoparco e gli ho detto, lì, questo signore passeggia dalle 6 del mattino fino alle 11 a sigaretta in bocca, si mangia Robanino, certo bisardo un miramotto con l'auricolare e la Lecci, queste sono le foto che vi avevo la mappa. Come? Mi ha detto, queste sono le foto che vi avevo la mappa, guarda, va bene però, prendetele tutte, mandamene nel telefonino, perfetto, le ho tutte mandate, non si è più visto quello che era lì, non si è più visto, sparito. Ho chiesto e la mozione me l'hanno mandato a Rossi. A Rossi? Ma è un altro comune, come è possibile? A Rossi l'hanno mandato, non lo so, a Rossi. Non c'è più, dice, a Rossi. Perché non c'è niente se un altro comune. L'azienda è sempre la stessa, capito? Ah, ecco. Ho capito. L'azienda è quella che abbraccia tutti i paesi, tutte queste cose qui. Sì, ho capito. Sono pagati anche bene, io ho visto buste paghi di turbini, oltre i 2.000 euro di stipendio. Certo, perché calcolato notturno, sono calcolate tante cose, e poi c'hanno il FISE, perché sono Zitra, capito? Io ho avuto quel contratto e con il ruolo che avevo, 2.000, e gli passavo dei parecchio. Poi quando ci hanno fatto il contratto Fede Casacque, varia. È così. Allora, siccome sei pagato profumatamente, allora devi pulire, perché se tu non pulisci, allora dice buzzino dentro e borra, capito? Come te lo leggo appoggiato la moto, volevo ricordare la legge, se avete in bocca il telefono in mano, il vostro avvocato mi ha dato il numero di telefono suo personale, il direttore dell'autoparco, lo giro direttamente al direttore dell'autoparco, perché adesso mi sono rotto veramente le balle, io pago le tasse, capito? Pago un bel di soldi, vabbè, questo rione è quello che paga più di tutti come tassa Mondezza e tutto, è veramente stato l'abbandono. Quando c'è caldo, Gianni, che vai a buttare la Mondezza, non ti puoi avvicinare ai cassonetti, non perché i cassonetti sono sporchi, no, perché è sporco per terra, è tutto appiccicoso. Lo so, perché non puliscono, è normale, la roba la buttano in terra, non puliscono, si scioglie, si magari c'è qualcuno che la appoggia anche in terra, la roba è niente di che, però perché più di una volta ho visto uno, non sai cosa ha fatto l'altro giorno, c'era un malato di vernice a fianco al cassonetto, deve essere servito il malato, l'ha preso e ha svoltato la vernice sopra l'erba, cazzo, ha detto bravo, caspita, complimenti, e perché? Perché lì cazzo passa il cane e si è sporcato tutto di bianco, non ho capito, e lo porti lontano da qua, ma non è questione di quello è inquinamento, se ti trovano ti mettono la multa, e vabbè, ma già se lo assorbe il terreno. Adesso non si possono fare certe cose, non puoi buttare neanche nel tombino a travare, hai capito? Non si possono fare certe cose, bagnarsi la rovia invece di pulire nell'erba, maledetti bastardi, cazzo. E uno l'ho pizzicato, ero nel paese fumando questa estate, l'ho pizzicato, si è filmato con un carrello, gli dico, mio amico, e non è neanche di questa zona perché è sceso la via Milano, quindi sicuramente di qualche campagna su in alto, capito? Sky Ciocca, quelle zone lì, Ruggero, non lo so, si è appoggiato con un carrello, via di butto, bidoni di garraggio, un coso, qualche idraulico doveva essere, uno scaldabagno vecchio, un lavandino vecchio, ha caricato tutto in terra. Mentre stavo proprio iniziato a scaricare, clic, clic, clic, numero di targa al carrello, numero di targa alla macchina, numero aggiornato al voto a Edo, sono andato al comando dei vigili urbani, ho chiesto di parlare con una persona, con un maggiore che si occupa di queste cose, ho detto mi, guarda, dammi subito, ho detto non me li girare a me le foto, dammi direttamente attaccato il cavettino, ce le ha scaricate nel computer dell'ufficio, non ti preoccupare che già lo sistemiamo noi, quando ne hai di queste cose ben vengano, perché questi maleducati vanno veramente sanzionati, non so come ce l'hanno fatto. Minimo si cos'entro di busta, minimo. A Sarlandia si impicca, capito? Perché è vergognoso che tu vieni a casa mia che ti butta la Mondezza, ma non negoziamo va bene. Abbiamo lottato per avere noi ogni, praticamente da Ridico ce ne sono 6, poi ce ne altre 6 nel comparto moto, perché è molto grande, noi siamo più di 100, capito? Poi ce ne altre 6 tra la Pol Garage e le case popolari, poi ce ne altre 6 prima di arrivare all'incrocio con via Carbonazzi. Abbiamo lottato per avere, perché noi porta a porta lo possiamo fare, che sono palazzoni, capito? Non fa. E quindi ci hanno messo tutti i cassonetti, ma tutti, carta, vetro, differenziata, liquidi, solidi, non so come metti cazzo è, tutti i cassonetti, tutti i versi, ce ne sono 6. Quindi, cazzo tu vieni a casa mia a buttare la Mondezza, no, ti la mangi. Ma poi io, per dire, quando c'ho qualcosa di ingombrante, chiamo praticamente il numero verde, mi dicono lo metta vicino ai cassonetti. Dovete andare 8 di sera e poi noi passiamo di mattina a prenderlo. E così faccio, non ho mai avuto problemi. Mi chiedono nome e cognome, forse per vedere se paghi le tasse a Mondezza, non lo so il numero di telefono, nome e cognome, ma io non ho niente da temere perché pago tutto qui. No, io non bisogna mettere niente fuori, io ho fatto pulizia in mansarda, tutto quello che non mi serviva l'ho portato giù, l'ho legato bene, il ferro col ferro, il legno col legno, ho caricato in macchina, capito, ho baciato il cigli dietro, ecco, sono baciato, ho caricato tutto in macchina di martedì mattina, alle 8 sono per piazzare i cigli, e ho scaricato tutto, credo, anche perché lì sono i baraccelli che li conosco tutti, quindi ho scaricato, a posto, e se no ho per il ferro, senza problema, nel casino e nel nulla. È capitato, sì, quando ho mandato, praticamente ho svoltato il garage di Via Pascoli, lui ho chiamato direttamente un amico, il motocarro, e ha portato tutto l'autoparco, qualche mobile ce l'ha portato in campagna, però io fuori non ho mai messo niente, nulla, anche quando ho cambiato lo scaldabagno, ma ho caricato in macchina, sono andato, ho aspettato di martedì, sono andato e l'ho portato a Piazza del Cinque, senza andare nemmeno all'autoparco, niente, capito già. Va bene, dai, sono quasi le 8 e un quarto, io inizio a prepararmi e vado a portare il cane già, ok? Se ci sei ci sentiamo dopo. Ciao, anche a Natalio comunque. Ciao, ciao Claudio, dai, buona passeggiata, ci sentiamo. Ciao, ciao già. Vamos.